Nel numero 1 della rivista militare del 2021, Igor Piani ci racconta l'emergenza Cedri e di come il comando dei supporti logistici è intervenuto in questa tragedia. Il 4 agosto del 2020 una violentissima esplosione sventra Beirut. Devasta letteralmente il tessuto urbano. Le prime stime parlano di centinaia di morti, migliaia di feriti e decine di migliaia di case distrutte o lesionate. Le immagini svelano uno scenario apocalittico che fa temere un atto di guerra. Ma le successive ricostruzioni riportano all'incuria umana che ha lasciato depositate 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio, sequestrato 6 anni prima e mai gestito. La richiesta d'aiuto internazionale per un paese che pochi mesi prima aveva dichiarato il default economico e che con tutta la regione medio orientale soffre anche lei dell'emergenza Covid-19 si fa immediato. I social diventano un veicolo di comunicazione fondamentale per gestire le emergenze e le necessità della popolazione. Nell'imminenza degli eventi, la rete rilancia le necessità e si legge in un tweet: «Il grande ospedale di Beirut non può più ricevere feriti. Il quadro della città è spettrale». 3 ospedali distrutti e i restanti messi fuori uso dalla mancanza di corrente. Le forze armate italiane si trovano a dare una corale risposta a questa ennesima emergenza del 2020. In pochi giorni individuano e preparano degli assetti al comando del brigadier generale Giovanni Di Blasi per portare supporto sanitario e materiale nell'area. L'esercito fornisce personale e assetti del 6° Reggimento Genio Pionieri di Roma, del 3° Reparto Sanità di Milano, l'ospedale da campo, forte della sua esperienza nell'allestimento della struttura a Crema nella prima ondata dell'emergenza Covid, e del Reggimento Gestione Aree di Transito di Bellinzago Novarese. Per il personale del 3° Reparto di Sanità e del suo comandante, Tenente Colonnello Michele Ricci, si tratta del 2° rischieramento in meno di una settimana. A Beirut, nell'area della cittadella universitaria, allestiamo un ospedale che, forte di 30 tende e 15 shelter, avrebbe dovuto lavorare come un roll 2 base. Ed invece, viste le moltissime richieste della popolazione civile e delle autorità locali, si è trovato ad operare come un roll 2 avanzato, in grado di ospitare fino a 37 pazienti contemporaneamente, testimonia il tenente colonnello Ricci. Personale si è fatto carico anche di talune richieste della sanità libanese di contrasto all'emergenza Covid-19, soprattutto per quanto riguarda le classi sociali più disagiate, contribuendo ad effettuare più di 1.300 tamponi. Una disponibilità ed una flessibilità di azione sottolineate anche dal presidente del Consiglio Conte durante la sua visita nell'operazione.